abbiamo ricevuto un invito da parte della fattoria di Masaniello a far conoscere l'attività ammirevole che loro svolgono nel deliziarci con le loro pizze e la loro cucina. E quindi da lì l'incontro con Michele, che è uno dei responsabili della cooperativa, con Andrea Giordani, che aveva scritto un racconto, e da lì io e Nino Pellacani, che siamo stati, come dire, un po' le persone di riferimento in questo dialogo, ma che poi di fatto nel fumetto ci sono tante altre figure che hanno collaborato, andrebbero citate, no? Ai disegni per esempio abbiamo Marcantonio Bianco, Vincenzo Bizzarri, Lucrezia Buganè, Luca Bulgheroni, Arianna Farricella, Dario Grillotti, Sara Menetti, Antonio Mirizzi e Enrico Pierpaoli, oltre a me, che oltre a essere un po' il curatore insieme a Nino della questione, sono anche disegnatore di alcune pagine. Perché tanta gente? Perché ognuno di noi, dei nomi che ho citato, non dimentico Andrea Plazzi, che anche ha scritto una bella introduzione al fumetto, facciamo parte di uno spazio condiviso qui a Bologna che si occupa di fumetto e di comunicazione già da un paio d'anni. E quindi tutti insieme abbiamo voluto celebrare questa bella realtà bolognese e abbiamo realizzato questo fumetto. Al compleanno, il 7 marzo, ci sarà anche Stefano Benni, che so che c'entra un po' col fumetto. Sì, quando abbiamo letto il racconto di Andrea Giordani, quasi immediatamente ci è balenato in mente che il protagonista potesse avere la faccia di Stefano Benni. Perché? Perché in qualche maniera la scrittura ce lo ricordava, perché io, che lo conosco in quanto avendo fatto per diversi anni le copertine dei suoi libri, me lo sono proprio figurato in questa situazione. Poi anche per l'impegno di Stefano, cioè ci sembrava la persona giusta per essere il protagonista di questa storia, e quindi abbiamo deciso di farlo diventare l'attore protagonista di questo fumetto. Ha prestato il volto, niente di più, quindi ognuno dei disegnatori che ho citato prima l'ha un po' reinterpretato a modo suo, quindi vedrete uno Stefano Benni più realistico nelle mie pagine, uno Stefano Benni più caricaturale semmai nelle pagine di Vincenzo Bizzarri, per citarne un altro, di Lucrezia Buganè. Ognuno di questi disegnatori ha dato la sua interpretazione, però diciamo lo spirito è rimasto ben evidente, anche perché appunto Benni per noi rappresenta bene lo spirito con cui la fattoria di Masaniello opera ormai da più tempo. Infatti proprio su questo volevo farti una domanda, perché insomma, essendo, ma immagino un po' tutti i lettori dei romanzi di Stefano Benni, come dire, ha raccontato anche non solo una Bologna, diciamo, ma uno spirito che si respirava a Bologna, che ritroviamo ancora nella fattoria di Masaniello. Infatti, è stato proprio quello che mi ha spinto a fare la proposta, ovviamente subito accolta da tutti, e quindi lo stesso Stefano si è dimostrato molto disponibile nei nostri confronti, e quindi tutti noi ci auspichiamo che sia anche presente il set, ci ha un po' confermato la sua presenza, però insomma sai com'è, personaggio comunque abbastanza impegnato, ecco, quindi l'ultima mail che mi ha mandato è: ci vediamo presto, quindi insomma direi che le riserve sono diminuite sostanzialmente. Il fumetto come uscirà? È disponibile solo nella presentazione? Come funzionerà? Durante la serata del 7 verrà presentato, appunto ci saranno esposte delle riproduzioni delle tavole, sarà in vendita in quell'occasione una tiratura limitata del fumetto, che poi avrà una circolazione online, ecco, pensavamo di diffonderlo attraverso i vari social, anche per tenere attiva l'attenzione intorno a questa bella realtà bolognese. Verrà distribuito, quindi è venduto in numero di 150 copie, non di più, numerate e firmate dagli autori che saranno tutti presenti. Il ricavato verrà dato in beneficenza a un'associazione che si occupa di autismo, per cui ecco, diciamo che la vendita avrà un valore anche in questo caso sostanziale per il sostentamento di una realtà che si occupa di sociale in maniera importante. Allora, non diciamo di più, perché a me non piace spoilerare, perché poi le storie vanno lette vanno viste. Certo. Niente, quindi vi aspetto tutti, sarà sicuramente una bella festa, ci saranno tante altre persone, ci saranno degli attori che reciteranno dei brani di Achille Pieveloce, il romanzo non recentissimo di Stefano, che è stato tra l'altro il primo di cui io ho realizzato la copertina, e che bene si adatta al tipo di operazione, ancora una volta, che la fattoria di Masaniello mette in campo.